2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Oggi è tornato Paolo Corleone a farci visita, ma non è una visita di cortesia, è in regia. Bene, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questa è la puntata dell'8 giugno 2013, questa è 2024, in diretta anche oggi, il nostro numero verde per chiamarci, per parlare con noi, per interagire, per le vostre domande, le vostre considerazioni, 800240024, oppure se preferite potete inviare un sms 349-238-6666, o poi ci sono tutti gli altri metodi sociali, li chiamiamo così, social network, quindi potete utilizzare Facebook, Twitter e anche l'email, che è forse una delle prime forme di social network. Dobbiamo fare i complimenti al Guardian e al Washington Post, giornalisticamente parlando, perché questi due quotidiani, sia nella loro versione cartacea tradizionale, sia e soprattutto nella loro versione digitale, hanno svelato alcuni particolari di un complesso sistema di controllo, archiviazione, analisi delle comunicazioni che avvengono negli Stati Uniti. Visto che molte delle comunicazioni di cui parliamo viaggiano anche su internet e molti servizi che noi utilizziamo sono di società americane, beh, la cosa riguarda naturalmente anche noi. Per vari motivi, sia per curiosità, sia perché appunto utilizziamo questi servizi, ma anche per capire se quello che succede negli Stati Uniti può succedere anche in Europa o succede già in Europa e in Italia. Allora, sostanzialmente, che cosa, senza entrare in dettagli e in particolari che probabilmente molti dei nostri ascoltatori hanno già ascoltato nei nostri giornali radio, letto su internet, sostanzialmente è stato svelato un piano per raccogliere i dati di milioni di telefonate che avvengono. Questa possibilità è aperta fino al 19 di luglio e chissà, magari anche in futuro, che avvengono tramite il gestore Verizon, che è uno dei gestori telefonici più importanti. Stiamo parlando in questo caso di dati di traffico e quindi non dell'intercettazione della telefonata, del contenuto della telefonata. Se io e Paolo Corleone ci chiamiamo, il dato di traffico è sostanzialmente, poi lo approfondiremo tra poco, questo particolare è a che ora questa telefonata è stata fatta, quanto è durata. Il sistema non ascolta quello che noi ci diciamo, quelle invece sono intercettazioni telefoniche ed è un'altra cosa. Poi è stato svelato, soprattutto il Washington Post ha raccontato di un mega sistema, un grande sistema denominato Prism, un sistema che traccia, archivia, ascolta, analizza tutte le comunicazioni che avvengono su internet negli Stati Uniti. È stata fatta anche una lunga lista di aziende che collaborerebbero, secondo alcune fonti, del Washington Post, collaborerebbero con la National Security Agency, che è questa agenzia potentissima americana. Naturalmente queste aziende hanno tutte smentito, sono tra le più note di internet, ma il punto non sta tanto lì. Noi vorremmo cercare di capire anche tecnologicamente che cosa succede. Allora, saluto Massimo Bernaschi, che è un esperto del CNR ed è docente di programmazione di sicurezza di sistema alla Sapienza di Roma e analisi dei sistemi compromessi nei master di sicurezza a Roma e a Modena. Bernaschi, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Adesso io ho detto programmazione di sicurezza, programmazione di sistema alla Sapienza di Roma, sostanzialmente che cosa intendiamo? Intendiamo l'insegnamento delle tecniche con cui si interagisce con il sistema operativo per sfruttare tutti i servizi che il sistema operativo, ad esempio Windows o anche Linux o macOS, rende disponibile alle applicazioni. È corretto suddividere le cose di cui parliamo oggi, quindi il traffico, le comunicazioni che avvengono negli Stati Uniti e poi cercheremo di capire anche che cosa succede appunto in Europa e in Italia, in telefonate, la classica telefonata che viene fatta da telefono fisso o da cellulare, Il traffico web è un certo tipo di traffico web che in teoria è riservato, diciamo, alle comunicazioni personali, che ne so, l'email, e tutto quello che noi mettiamo sul web ed è facilmente accessibile a tutti. Se io faccio un tweet, quello lo possono vedere tutti facilmente. Se io metto qualche cosa su Facebook, se non lo proteggo adeguatamente, quello lo possono vedere tutti. Sostanzialmente questi tre tipi di comunicazioni esistono oggi nella vita personale di molti cittadini. La distinzione purtroppo non è più così netta, perché ad esempio la telefonia ormai spesso viaggia sugli stessi canali del traffico dati internet, anche la telefonia cosiddetta tradizionale, quindi non la telefonia cosiddetta VoIP, e poi naturalmente viceversa molto traffico internet viaggia attraverso gli stessi canali che vengono utilizzati per la telefonia, quindi ad esempio attraverso uno smartphone. Purtroppo c'è da questo punto di vista molta sovrapposizione, però comunque c'è sicuramente una distinzione tra tutto quel tipo di dato che si vorrebbe, almeno dal punto di vista dell'utente, mantenere riservato, e tutto il resto delle informazioni che invece si vuole rendere pubbliche. Insomma, gli esempi che hai fatto tu di Twitter e di Facebook sono sicuramente esempi in cui l'utente vuole che l'informazione sia resa pubblica, anzi questi strumenti esistono esattamente per renderla pubblica. In molti altri casi, appunto, quello più classico è quello dell'email, che nasce come forma elettronica dello scambio epistolare che tradizionalmente è sempre stato riservato, uno vorrebbe che fosse mantenuto riservato anche nel mondo digitale. Purtroppo questo non sempre avviene. Certo, alcuni ascoltatori scrivono, non l'ho detto, me l'ho messo tra gli appunti, ma lo dico adesso visto la sollecitazione di alcuni ascoltatori che dicono: ma come, vi sorprendete che tutto accada? Beh, in effetti io non mi sono sorpreso moltissimo, devo dire che il colpo giornalistico ha scatenato tutta una serie di reazioni, ma se uno segue queste notizie, beh, devo dire, se uno segue anche un po' 2024, ne abbiamo parlato anche in passato, e soprattutto devo dire, se uno legge, visto che ogni tanto escono articoli su quello che sta facendo e su quello che sta costruendo la NSA, quindi la National Security Agency, che sta costruendo negli Stati Uniti, ha costruito negli ultimi anni dei data center giganteschi, e naturalmente questi data center serviranno pure a qualcosa. Tuttavia, Bernaschi, dal punto di vista tecnico, quindi diciamo, lasciamo perdere per un attimo quello che permette la legge, quindi la lecità o meno di un'azione, è possibile ottenere i dati di traffico, ad esempio, delle telefonate senza la collaborazione dell'operatore telefonico? Direi non in maniera completa, come appunto è avvenuto negli Stati Uniti, perché naturalmente alcuni dati potrebbero essere in qualche modo reperiti, ma l'elenco completo, appunto i cosiddetti tabulati completi di tutta l'utenza in maniera continuativa, direi che non possono essere ottenuti senza la collaborazione continuativa di un operatore o di più operatori telefonici, anche perché la mole di dati di cui parliamo è una mole di dati piuttosto importante, non parliamo di pochi byte, quindi è anche un problema proprio tecnologico di trasferimento, quindi non sarebbe facile organizzare un'operazione di questo genere senza la collaborazione degli operatori. Non è detto che gli operatori mettano a disposizione questi dati volentieri, però magari sono in qualche modo tenuti a farlo e quindi comunque li rendono disponibili. Sì, negli Stati Uniti nel caso in specie Verizon è stata appunto obbligata da una corte a fornire questi dati. Stiamo parlando, come dicevo all'inizio, non del contenuto ma di dati che appunto sono la durata, la telefonata, anche il luogo da dove viene fatta la telefonata, ad esempio nel caso di un telefono mobile? Molto spesso sì, l'insieme di queste informazioni vengono spesso identificate come i cosiddetti metadati, cioè un insieme di informazioni che non sono appunto il contenuto della telefonata, ma che in qualche modo aggiungono ulteriore informazione, appunto, quindi appunto il numero chiamato, il numero chiamante, informazioni come il telefono, l'email viene spesso reso disponibile in questi tabulati, l'inizio e la fine della chiamata e quindi la sua durata, il tipo, potrebbe essere una chiamata a voce, ma potrebbe anche essere un SMS, e molto spesso appunto anche, ovviamente nel caso dei telefoni cellulari, questo è particolarmente interessante, la cella a quale era agganciato il telefono quando è iniziata la conversazione. e tutte queste informazioni appunto in qualche modo arricchiscono e rendono disponibile poi per eventuali analisi tutta una serie di dati che possono essere, come si dice, anche incrociati tra di loro nello spazio e nel tempo. Infatti questa è la cosa interessante, perché molti ascoltatori possono facilmente dedurre che se io posso ascoltare, e lo posso fare solo se un magistrato permette questa azione, se io potessi ascoltare una telefonata tra una persona e un'altra, ascolto delle cose, da lì posso capire tanti particolari. Ora, questo è facilmente insomma comprensibile. Che cosa invece riesco a capire? E qui stiamo parlando di sistemi complessissimi, giganteschi, che riescono a capire certe cose incrociando dati di milioni di telefonate, direi miliardi di telefonate. Che cosa riesco a capire da questi dati, cioè dalla durata, dal luogo, dalle utenze? Beh, riesco a estrarre delle informazioni interessanti, ad esempio appunto tra le analisi che si possono fare sono quelle che portano a individuare quelli che si chiamano cluster, cioè raggruppamenti, per cui vedo che un certo numero di utenti si chiamano tra di loro frequentemente oppure a intervalli regolari e sempre con la stessa composizione di gruppo, e quindi da questo posso dedurre che questi utenti in qualche modo interagiscono per qualche motivo, anche se magari questi utenti se interrogati potrebbero negare di conoscersi tutti tra di loro, ma invece appunto evidenziando un collegamento continuo, magari appunto ripetuto nel tempo, uno può individuare delle informazioni che altrimenti non potrei individuare neanche analizzando una singola chiamata. Tra altre cose c'è da dire che molto spesso i tabulati sono resi disponibili più facilmente dell'intercettazione. L'intercettazione appunto richiede una procedura giustamente molto, molto attenta, mentre il tabulato può essere richiesto in Italia semplicemente da un ufficiale di polizia giudiziaria, quindi in una forma più semplice rispetto all'intercettazione, che invece richiede una richiesta da parte di un magistrato. Sì. Per quanto riguarda invece il traffico internet, come stanno le cose? Allora, se abbiamo detto che per raccogliere il traffico telefonico la collaborazione, certo, diciamo, i servizi segreti più evoluti probabilmente qualcosa di più lo riescono a fare, però diciamo in quel caso la collaborazione dell'operatore telefonico è importante. Invece dal punto di vista tecnico, sempre parlo, è possibile ottenere dati di traffico internet senza la collaborazione dell'internet service provider? È in un certo senso più facile per come è organizzata internet, in particolare per la sua natura appunto delocalizzata, internet può essere in qualche modo più difficile apparentemente, ma in realtà può essere più semplice da intercettare, perché esistono sparsi in tutto il mondo, in Italia ce ne sono due in particolare, dei cosiddetti punti di interscambio dove arrivano tutti i fornitori di connettività, e in questi punti di interscambio scambiano appunto i dati tra di loro, e quindi inserendo, diciamo, chiamiamole delle sonde per intercettare, fare quello che si chiama in gergo snooping, dei dati in questi centri di interscambio, si possono leggere tutti i dati in transito, ed è molto difficile, non dico impossibile, ma molto difficile per un operatore accorgersi della presenza di una sonda di questo tipo, ma naturalmente in questo caso è il centro di interscambio che dovrebbe rendere disponibile l'accesso per inserire una sonda. Vorrei anche aggiungere che nel caso, diciamo appunto, che è venuto alla ribalta in questi giorni, non quello telefonico ma quello cosiddetto Prisma, lì il discorso sembrerebbe però un po' diverso. Lì sembrerebbe non tanto un discorso di intercettazione di dati, come si dice, on the fly, cioè durante il transito, ma dei dati che i vari fornitori mantengono, quindi appunto le email che sono state inviate e ricevute, i dati che gli utenti si sono scambiati e che rimangono in queste cloud, quindi non i dati durante il loro transito, ma i dati che sono salvati da quelli che poi rendono disponibili questi dati in molte forme. Quindi quella è una situazione un po' diversa tecnicamente, da certi punti di vista relativamente più semplice se c'è sempre la collaboratore del fornitore, ma in questo caso non devo intercettare, devo accedere a dei dati che sono statici, sono fermi su un disco. Sì. E da questo punto di vista mi sembra, io ho letto parecchie cose, mi sembra di aver compreso che rimane un grande dubbio, perché Washington Post svela e dice che questo sistema può accedere alle banche dati di una serie di grandi aziende internet, e queste aziende tutte hanno detto no, noi non facciamo accedere sistematicamente nessuno, cediamo i dati solo nel momento in cui ci vengono puntualmente richieste secondo le normative e da un'autorità giudiziaria. Naturalmente è difficile che dicano capire da lontano qual è la verità, però tutti questi fornitori di servizi per mille buoni motivi hanno dei sistemi anche molto voluti per accedere ai dati, analizzarli, estrarre informazioni che ci sono anche molto utili. Faccio un semplice esempio: se qualcuno è utente di Gmail avrà visto che Gmail ormai da un po' di tempo suggerisce i destinatari di un messaggio, per cui se io sto scrivendo il messaggio a Tizio, normalmente quando scrivo a Tizio scrivo sempre anche a Sempronio, mi suggerisce di aggiungere Sempronio nella lista dei destinatari. Questo ovviamente lo fa perché ha analizzato in qualche modo il mio traffico precedente, quindi hanno dei sistemi automatici di fare questa operazione, perché naturalmente non c'è un omino di Google che sta lì a guardarsi tutte le mie, c'è un sistema automatico che fa questo tipo di analisi. Naturalmente questi sistemi automatici potrebbero essere resi disponibili, diciamo apparentemente senza nessun sforzo da parte del fornitore all'NSA o a chi per loro che ha bisogno o ritiene di aver bisogno di accedere a quelle stesse informazioni. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco e sentiremo Giorgio che ci telefona da Savona. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, stiamo parlando di quello che sta accadendo e molti sostengono da tempo, da molto tempo, negli Stati Uniti. Giorgio da Savona, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Prego. Innanzitutto i complimenti per la trasmissione, una delle migliori trasmissioni Radio 24, anche se grazie, non sono molto forse sarebbe bene anche magari un'ora serale. E non faccia la classifica, faccia la domanda. Grazie. Ok, comunque avevo chiamato già un'altra volta riguardo della 4G, riguardo privacy e questi problemi. Io non sono sorpreso più di tanto di questa notizia, tutti sanno, perché ormai l'informazione, grazie al cielo, grazie alla rete, è diventata di dominio, si è esteso il dominio. Per esempio Echelon, sono anni che fa questo lavoro, si sa, giustamente. Sorge il dubbio, il problema, se fino a che punto ci si può spingere nel controllo dei dati. Infatti questo è uno dei punti, certo. La premessa è che fruiamo tutti di informazione e comunicazione in una maniera che prima ci potevamo sognare, cioè abbiamo esponenziale è stata la crescita. Quindi chi vive questi tempi e sfrutta tutta la tecnologia, ritengo di essere uno di quelli che cerca di farlo, deve anche accettare che comunque il controllo avvenga per prevenire e reprimere i reati. Questo è il prezzo da pagare. Sorgono dei dubbi circa la legittimità di certi controlli. Certo. Nella specie di questi controlli non lo sentiamo più. Della comunicazione, quelli dovrebbero essere fatti salvi. Chiaro è che un delinquente, una persona che vive di malaffare, possa avere delle remore a far ascoltare i suoi messaggi o a farsi intercettare. Una persona normale, anzi, potrebbe quasi avere piacere a essere intercettata. Cioè, non so se ho chiarito. Sì, no, chiaro. Grazie Giorgio per essere intervenuto. Vorrei chiedere sapere se Massimo Bernaschi è rimasto sorpreso a sentire queste notizie, forse mica tanto. No, non particolarmente. appunto, il fatto che ci siano delle analisi fatte, come dicevo prima, in automatico, e quindi fatte praticamente di continuo, anche è noto, e come sta anche dicendo l'ascoltatore, fa parte di tutte quelle utilità che ci sono rese disponibili, che da molti punti di vista ci semplificano la vita, che però appunto quando poi le vediamo con l'occhio di chi vuole mantenere la riservatezza ci sembrano sorprendenti. È chiaro che se io mantengo delle informazioni, come si dice, in chiaro, queste informazioni qualcuno le può leggere, ma questo avviene anche sui sistemi di una qualunque società dove gli amministratori possono accedere ai dati dei colleghi senza particolari problemi. Se uno riflette alla situazione che ormai si è creata, data come si dice, la pervasività dell'Information Communication Technology, non ci sono molte alternative. L'unica alternativa che rimane valida dal punto di vista tecnologico, se uno ha dei dati che veramente vuole preservare dall'occhio indiscreto, deve utilizzare la crittografia. Non ci sono alternative, soltanto sì. La crittografia, diciamo, ci permette di tenere i dati riservati, purché uno poi scelga le giuste password, ma questo è un altro discorso. Certo, questo è, questo è un punto molto interessante, molto importante, magari in futuro dedicheremo anche una parte di 2024 alla crittografia, perché la stessa National Security Agency sta costruendo un data center che mi pare costi attorno ai 2 miliardi e tra gli scopi di questa struttura c'è anche quella di implementare sistemi per riuscire a bucare sistemi di crittografia che mi risulta, se ben utilizzati, sono molto robusti attualmente. Beh, dunque, intorno all'NSA girano molte leggende anche, certo. Però anche molte verità. Cioè, l'NSA per molti anni è stata l'organizzazione che aveva a libro paga il più alto numero di matematici al mondo e ha sicuramente dei sistemi di calcolo tra i più efficienti che ci sono al mondo. Gli algoritmi di crittografia hanno il vantaggio di essere pubblici, e questo appunto è un vantaggio, il fatto che l'algoritmo sia pubblico, perché i ricercatori studiano eventuali debolezze e questo rende estremamente difficile, non voglio dire impossibile, perché non vorrei essere smentito tra una settimana, rende estremamente improbabile che ci siano quelle che siamo delle backdoor che permettono quindi facilmente all'NSA o a chiunque altro di decrittare ciò che è stato cifrato. Però naturalmente con un'adeguata potenza di calcolo e soprattutto sfruttando sempre l'elemento di debolezza umana, perché poi tutti gli algoritmi di crittografia richiedono a un certo punto una chiave, una password. Se la password non è scelta in maniera opportuna e con opportuni mezzi di calcolo, cioè potenti mezzi di calcolo, si fanno un sufficiente numero di tentativi, si riesce magari a decrittare. Certo, i dati che sono sui social network in generale, insomma, su internet sono più facili da raccogliere perché molto spesso sono pubblici. In quel caso che tipo di analisi possono essere fatte? Si raccolgono in effetti utilizzando strumenti software che si chiama crawler, che fanno appunto una sorta di navigazione, raccolgono questi dati. Molto spesso i grandi social network, come ad esempio Facebook, tanto per citare quello più noto, quando si accorgono che c'è un crawling in atto, pongono una sorta di limitazioni, ma non tanto per questioni di riservatezza quanto per questioni di efficienza. E con i dati raccolti, appunto magari superando con la pazienza questi blocchi che vengono in qualche modo imposti, con i dati raccolti si possono fare analisi molto interessanti. Esiste, diciamo, quasi, oserei dire, una nuova scienza che analizza i social network, che in parte sono simili a quelli che ho citato prima, si possono fare anche per le reti, per le telefoniche, ma sono anche più interessanti perché naturalmente da un social network si possono estrarre anche appunto i contenuti e quindi i testi che vengono resi pubblici, le immagini, e quindi si possono incrociare dati anche di natura diversa, estraendo molte informazioni. Molto spesso queste informazioni sono utilizzate dal punto di vista accademico soltanto per scopi dimostrativi, cioè quindi per far vedere che la rete si organizza in un certo modo, però naturalmente qualcuno interessato ad estrarre proprio informazioni specifiche può utilizzare le stesse tecniche per estrarre dati mirati magari a una certa community o dati mirati addirittura a dei singoli individui. Bene, io ringrazio Massimo Bernaschi per essere stato con noi, sicuramente insomma ci saranno altre occasioni, visto che non ci siamo appunto stupiti, potremmo continuare anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a parlare di questo tema, perché tutto ciò sta avvenendo da anni e continuerà a succedere e ad accadere. La situazione, detta proprio in estrema sintesi, in Europa è molto diversa anche dal punto di vista tecnologico, nel senso che non abbiamo le infrastrutture, le macchine per fare tutto ciò che accade negli Stati Uniti? No, in realtà le macchine ci sono per fare questo tipo di analisi, cioè l'Europa come capacità di calcolo, adesso forse non so se si può dire che è esattamente lo stesso livello, ma certamente non è molto lontana dagli Stati Uniti come capacità di calcolo, come capacità di immagazzinazione dei dati. La normativa è certamente molto diversa e da questo punto di vista ancora c'è la necessità di uniformare per esempio tutto un certo tipo di informazioni che i fornitori di connettività, i fornitori di telefonia rendono disponibili. Però da un punto di vista strettamente tecnico certamente i paesi europei potrebbero, diciamo, organizzare una raccolta dati ed un'analisi con gli stessi tipi di strumenti, con gli stessi tipi di tecnologie che sono stati utilizzati ormai da anni, perché appunto il discorso è questo, è stato davanti da anni negli Stati Uniti. Bene, ringrazio Massimo Bernaschi, a presto e grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Tutti ascoltatori. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Le 16:07 minuti, questa è 2024, la nostra seconda parte. Scrive un ascoltatore ed è un messaggio che richiama la nostra attenzione e mediteremo anche su questo, perché non è l'unico a scrivere una cosa del genere. Il problema è che proprio non ci meravigliamo più di queste notizie, facendo riferimento a quello di cui abbiamo parlato fino a poco fa, cioè tutto questo sistema che è stato messo in luce dal Guardian e dal Washington Post negli Stati Uniti. A proposito di questo, noi tra poco ci faremo una domanda: che cosa accade, qual è la situazione in Europa e naturalmente in Italia? Prima vi presento gli ospiti di questa seconda parte: Francesco Mantegazzini, che è Business Development, responsabile del Business Development del gruppo 24 Ore. Francesco, benvenuto a 2024. Ciao Enrico, grazie. Poi spiegheremo perché ti abbiamo invitato, perché il 17 giugno accade qualcosa, quindi alla sede del Sole 24 Ore. Dario Giudici è cofondatore e si dice in termini tecnici CEO, quindi l'amministratore delegato di Siamo Soci. Bentornato. Ciao Enrico e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parleremo di startup e parleremo anche di crowdfunding con i nostri ospiti. Avremo un terzo ospite che collegheremo tra poco al telefono. Ma dicevo, tornando a quello che stavamo dicendo poco fa, qual è la situazione in Europa e naturalmente di conseguenza anche in Italia? Ne abbiamo parlato con Luca Bolognini, che è un avvocato ed è presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. In Europa c'è chi dice che sia addirittura peggio o meglio a seconda dei punti di vista, nel senso che abbiamo addirittura una direttiva dal 2006, la 2006-24 appunto, che impone a tutti i fornitori di servizi di comunicazione, quindi gli operatori delle comunicazioni, di tenere traccia, di conservare i dati di traffico, 24 mesi per il telefonico e 12 mesi per il telematico. Cosa sono questi dati di traffico? Sono i dati esteriori, cioè i dati relativi, per esempio, a qual è il numero che è stato chiamante, quello chiamato, la data, l'ora, oppure nel caso delle email, il mittente, il destinatario. Non sono i contenuti delle conversazioni, dei nostri messaggi. Devono essere conservati, quindi in Europa e in Italia, da tutti gli operatori di comunicazione, anche a prescindere dall'ordine di una corte, per quanto speciale come negli Stati Uniti, lì comunque c'è questa corte che deve dire sì. Da noi invece gli operatori di comunicazione devono memorizzarli per scopi di accertamento e repressione dei reati, e quindi proprio per scopi anticrimine, di prevenzione e di accertamento, sempre, a prescindere dal fatto che ci sia un caso specifico da monitorare. Per esempio, questa nostra telefonata resterà agli atti per 24 mesi, dal punto di vista dei suoi dati di traffico, perlomeno. Dal punto di vista dei contenuti, invece, in tutti i paesi ci sono norme abbastanza simili. Noi ne abbiamo una che è nascosta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, quindi è messa un po' da parte, ma gli addetti ai lavori la conoscono molto bene, che è l'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, che consente al governo, cioè al ministro dell'Interno in particolare, di disporre intercettazioni preventive, telematiche e o telefoniche, e gli consente di disporle ma anche di delegarle ad altri soggetti. E questo è consentito anche a questori, comandanti dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Si tratta di intercettazioni che entrano nel merito dei contenuti e che sono preventive, quindi non sono intercettazioni giudiziarie vere e proprie, e si possono fare per prevenire gravi reati, reati anche terroristici, eversivi, e non abbisognano di tutte quelle cautele che invece sono previste nel codice di procedura penale per le intercettazioni classiche. Per esempio, non serve una notizia di reato per farle. E posso mettere sotto controllo numerosi soggetti, vaste aree, e quindi posso conoscere quello che viene detto tra due persone al telefono, ma tra tante persone al telefono, oppure viene scambiato online i contenuti delle navigazioni, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Posso però dire che è molto probabile, anche se naturalmente conoscere i dettagli è piuttosto complicato, che mentre negli Stati Uniti pare, anche guardando i data center della NSA, dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, che lì il controllo sia massiccio a livello industriale, beh, probabilmente in Italia, anche solo per la mancanza di tecnologia, non siamo a questi livelli. Sì, intanto appunto le intercettazioni preventive di cui le parlavo sono comunque anche in Italia autorizzate da un soggetto che in questo caso è inquirente, cioè dal procuratore competente per territorio. Essere autorizzati da un procuratore è cosa molto diversa, molto più semplice che essere autorizzati da un giudice giudicante, garante dei diritti fondamentali, intendiamoci. Comunque, con riferimento alla elaborazione, diciamo, industriale di questi dati, nulla vieta di pensare che comunque anche in Italia si potrebbero utilizzare, una volta che si adottassero certe intercettazioni, dei software, per esempio, degli algoritmi per analizzare i contenuti, che spesso sono massivi. Io non le so dire, non so dire agli ascoltatori, anche perché è coperto da segreto, quali siano poi le tecniche utilizzate dalle forze di polizia e dal Ministero dell'Interno per analizzare le intercettazioni preventive che eventualmente vengono fatte, e questo naturalmente rientra in un'area non conoscibile dai cittadini. Però il problema che lei pone è assolutamente serio, nel senso che credo che prima o poi, ovunque, negli Stati Uniti, magari per primi perché sono più avanti da questo punto di vista, ma anche in Europa, anche in Italia, dovremo interrogarci sul grado di trasparenza e di conoscibilità degli algoritmi che sono utilizzati dai soggetti pubblici per analizzare, profilare, monitorare i cittadini. E questa sarà sicuramente una tematica su cui ci sarà battaglia nei prossimi anni o decenni. Digital News. Alcune notizie della settimana. Inizia domani l'Electronic Entertainment Expo, famoso come E3 o E-Cube a Los Angeles, il più importante appuntamento per il settore videogame. Gli occhi sono puntati soprattutto su Sony e Microsoft, chiamate a illustrare i dettagli di PS4, cioè la nuova PlayStation, e Xbox One. Digital News. A pochi giorni dall'inizio della conferenza annuale per gli sviluppatori, lunedì a San Francisco, Apple avrebbe chiuso gli accordi con Warner, Universal e Sony Music per lanciare il servizio di streaming musicale iRadio, che avrà anche la pubblicità audio. Altra novità della conferenza dovrebbe riguardare iOS 7, cioè il nuovo sistema operativo per terminali mobili. Digital News. Samsung ha vinto una causa contro Apple negli Stati Uniti e potrebbe bloccare l'importazione di alcuni prodotti Apple se la sentenza verrà confermata dopo l'annunciato ricorso, e non ci sarà alcun veto presidenziale. Alcuni vecchi prodotti tipo iPad 2, 3G, iPad 3, iPhone 4, l'iPhone 3GS non potranno più essere importati da Apple negli Stati Uniti dai luoghi di produzione, ovvero Cina e Brasile perché violano un brevetto Samsung. La sentenza ribalta quella di un altro giudice che aveva definito l'uso del brevetto da parte di Apple invece regolare. Banzai, che è uno dei più importanti gruppi internet in Italia, ha acquistato Mr. Price, ePlaza e Bow, tre noti marchi dell'e-commerce italiano specializzati in elettronica di consumo. Banzai si consolida quindi tra i più importanti gruppi italiani nell'e-commerce. Della serie tutti possono essere editori, allora il primo telegiornale della polizia è disponibile da oggi sul sito istituzionale poliziadistato.it, completamente autoprodotto, il TG racconterà le notizie più importanti della polizia. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco cominceremo a parlare di startup e di crowdfunding, adesso ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade. 2024. Il 17 giugno nella sede a Milano del Sole 24 Ore, o meglio del gruppo 24 Ore dove c'è anche Radio 24, ci sarà la Fiera delle Startup, un appuntamento molto importante, ci sono quasi 200 startup iscritte. Buongiorno di nuovo a Francesco Mantegazzini. Allora Francesco, ciao. Tu ti occupi tra le tante cose all'interno del gruppo 24 Ore anche di startup. Sì, mi occupo di startup. E ti sei inventato questa fiera delle startup che ha avuto, diciamo, finora sulla carta un successo incredibile. Te lo aspettavi, cioè tu dicevi, vabbè, ma lo sapevo io. Ma in realtà no, perché ci eravamo già dati un obiettivo sfidante rispetto al successo già dell'anno scorso della presenza di 63 startup. Avevamo tentato di raggiungere l'obiettivo di 100. E poi dopo, data le richieste massive, le abbiamo dovuto portare a 150, poi 170, dopo, grazie all'aiuto anche dei nostri vicini in casa di Price, siamo riusciti a portare a 190. Perché di spazio ce n'è, però non è tutto nostro. Esatto, siamo a 200 startup con 250 preselezionate e richieste che non sono neanche più il conto di quanti sono contattati. Senti, questo appuntamento si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alle startup, perché diciamo negli ultimi negli ultimi mesi o comunque negli ultimi due o tre anni gli appuntamenti dedicati alle startup di diverso genere si sono moltiplicati. Facciamo un breve quadro e anche un tuo parere di che cosa, di quanto è forte questo fermento che c'è all'interno della nazione. È molto moda o c'è effettivamente materia? Cioè molti giovani investono tempo, denaro e ne cercano anche, infatti oggi parleremo anche di crowdfunding proprio per questo motivo, cioè quanto c'è di solido e di robusto e quanto è moda, perché si parla anche di startup per moda, no? Un po'. Beh, sicuramente se ne parla per moda se non si fa startup, perché per chi fa startup non è una moda ma una cosa molto seria, perché richiede tantissimo impegno, tantissima tenacia, ci si investono probabilmente grossa parte delle proprie risorse, perché molti di quelli che fanno startup, ricordiamo, sono ragazzi che non hanno dei grossi patrimoni accumulati alle spalle. Sicuramente si sono moltiplicati molto gli eventi e questo è un bene. Io sono rimasto sorpreso quando qualcuno l'anno scorso criticava che c'erano troppi eventi. Secondo me sono pochissimi, ce ne dovrebbero essere centinaia di migliaia in tutto il paese. Questa dovrebbe essere una cosa che, come in altri paesi, deve cambiare la cultura, e noi siamo qua proprio a cercare di cambiare la cultura. Mi dicono che è impossibile, ma vediamo che la fiera, che è un evento nato dalla community stesso, assolutamente non preventivato, basato su concetti tipo il recupero dei valori, quindi il fatto che se ci si unisce tutti insieme ce la possiamo fare, che il duro lavoro viene ripagato, che l'onestà anche è un valore a cui ci vogliamo attenere, eccetera. Alla fine la gente ci crede e vediamo che il successo è stato incredibile, ma è stato incredibile anche il successo rispetto alle istituzioni e anche a tutti quanti quegli altri che si occupano di startup e cercano di fare il bene delle startup. Noi li abbiamo chiamati simpaticamente i qualcosatori delle startup, perché abbiamo tutta una grande varietà di personaggi, da incubatori, acceleratori, grandi società. Sostanzialmente alla fiera delle startup, ma in molti di questi appuntamenti, chi ha un'idea imprenditoriale, ma soprattutto chi ha già creato una piccola azienda, una piccola società con altri soci, viene e si presenta, giusto? Corretto, si autoallestisce un proprio, noi li chiamiamo anche in questo caso i baracchini, perché il baracchino è diventato un po' l'elemento della fiera, nel senso che è un qualcosa che si crea con pochi soldi e tanta creatività. Ci ricorda un po' quella che può essere una soluzione per il nostro paese, chiaramente, dove ormai magari siamo un po', abbiamo risorse scarse, ma la creatività per l'Italia è sempre stato uno dei grandi fattori di successo e dobbiamo assolutamente valorizzarla. Sì, sicuramente noi stiamo rivivendo sotto un'altra luce, in un ambito completamente diverso, un momento in cui molti giovani cercano nella creazione di impresa un futuro. È successo in varie ondate nell'Italia, diciamo che ci siamo distinti in altri anni per la nostra forza e la nostra creatività. Questo fenomeno forse è anche spinto dalla crisi economica, perché se uno non trova da lavorare... Certo, cerca di inventarsi un'azienda. Mi piacerebbe fare una precisazione che qui io tengo parecchio, ovvero c'è il giovane che cerca di trovare una soluzione. Qua non i giovani non sono solo giovani, cioè qua si parla di giovani di spirito. Io ho incontrato persone fantastiche, 50, 60, ma anche 70 anni, che anche l'anno scorso sono venuti col loro baracchino sotto il sole con un'energia incredibile, molto più di ragazzi e magari di 20 anni, eccetera. Quindi ricordiamoci che startup non vuol dire solo una persona giovane, vuol dire qualcuno che con grande forza di spirito riparte, fa nascere qualcosa con delle grandi ambizioni, quindi non qualcosa che rimanga lì in un piccolo angolo, come troppo spesso è accaduto, ma qualcuno, come quasi col sogno americano, no? Seguiamo sempre questo sogno. E ora avremo, piacerebbe si parlasse anche di un sogno italiano, cioè una cosa che nasce piccola ma diventa grande. Questa è una startup. Dunque, vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci per partecipare a questa chiacchierata che stiamo facendo sulle startup, ma tra poco anche sul modo con cui le startup possono finanziarsi. Dicevo, numero verde 800 24 0024, se volete partecipare con un sms 349 238 6666. Potete utilizzare anche la nostra pagina Facebook oppure Twitter, @e_pagliarini, questo è il mio tweet, ma potete utilizzare anche quello ufficiale della radio, quello di Mantegazzini, quello di Giudici, potete, cercandoli sul motore di ricerca di Twitter, lo potete trovare. Francesco, veniamo ai finanziamenti. Allora, quali sono le modalità con cui le startup raccolgono soldi? Allora, è noto che soprattutto negli Stati Uniti ci sono fortissimi venture capitalist, che sono poi società che hanno milioni di dollari da investire, selezionano decine, migliaia, centinaia di migliaia di piccole società e fanno forti investimenti. Questo settore esiste anche in Italia? Esiste anche in Italia, certo non nella stessa misura che esiste negli Stati Uniti, siamo a una prima infanzia, però vediamo già che rispetto a 3 anni fa c'è tutto un altro modo di operare, per cui anche tutte categorie di business angel, queste figure di investitori privati che decidono di entrare dopo i primi finanziamenti, che tipicamente sono ricevuti da amici, famiglie, poi anche i famosi fools, dicono negli Stati Uniti, cioè gli sciocchi, cioè quelli che investono senza ben sapere, i pazzi. Mi piace. Però appunto ora adesso esistono anche diversi gruppi di business angels che investono insieme, tra cui Italian Angel, il club degli investitori di Torino, Neon Club, eccetera. E poi chiaramente anche c'è tutto il settore dei venture capitalist, che sono circa ci sarà una decina di fondi più o meno in Italia, oltre a qualche fondo seed vuol dire il seme, cioè quei che danno pochi soldi, che danno pochi soldi a più società. Sì, comunque è vero che in generale, diciamo, soprattutto dal lato degli investitori istituzionali e i venture capitalist, li mettiamo da quella parte, non ci sono tantissimi soldi in Italia. Ma in realtà un po' di soldi ci sono, non tantissimi chiaramente come gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono stati beneficiati dal periodo delle cosiddette www, cioè la prima era internet, dove si sono creati tutta una serie di grandi miliardari che poi dopo si sono trovati ad avere questi enormi patrimoni da investire e hanno iniziato a, quindi a loro volta a finanziare altre piccole società. Dunque, un'altra modalità per raccogliere soldi che potremmo definire dal basso o dalla rete, perché sicuramente la rete è uno dei motori di questo, di questa rivoluzione, si chiama, anche qui devo usare un termine inglese perché non è nato in Italia, quindi non è come la musica classica, si chiama crowdfunding, che sostanzialmente potremmo tradurre come fondi che vengono messi assieme dalla gente su internet, prevalentemente su internet. Ho tradotto male? Ma hai tradotto bene, anche che l'altro termine verrebbe in mente da toscanaccio, quali sono? È la colletta, la famosa colletta, però rende bene l'idea. Sicuramente sì, questo è un nuovo fenomeno, ci sono varie tipologie appunto di crowdfunding, sappiamo i principali sono quelle cosiddette equity, ovvero del capitale, si raccoglie il capitale per finanziare una società, lending, ovvero si raccolgono dei fondi da prestare poi altri individui, oppure reward o donation, cioè a ricompensa o a donazione, ovvero si chiede al pubblico di donare dei soldi o semplicemente come donazione, oppure a fronte di un qualche tipo di servizio che potrebbe essere un semplice grazie, una maglietta, una tazza, oppure sì, un prodotto, una preview del prodotto che poi verrà realizzato. Beh, tra poco sentiremo anche Fabio Simonelli, che è collegato con noi a proposito di crowdfunding. Dario Giudici, voi fate questo sostanzialmente? Siamo soci, è la tua società, la tua assieme ai tuoi soci. Siamo soci, è una società che fa crowdfunding fondamentalmente. Non precisamente, è una società che sfrutta il potenziale della rete per allargare la platea dei potenziali investitori per le startup. Oggi Siamo Soci ospita più di 1000 startup in cerca di investitori, ma guarda, per spiegarti al meglio che cosa fa Siamo Soci, lo vorrei fare attraverso qualche esempio che lo rende più semplice. Fortuna Vini, per esempio, è una startup di Treviso che ha studiato un metodo innovativo di vinificazione in grado di dare dei sapori e dei profumi ai vini completamente nuovi, che gli consente di differenziarsi dalla concorrenza e di vendere molto bene sia in Italia che all'estero. Avevano bisogno di fondi per rafforzare il proprio sviluppo commerciale, principalmente all'estero, e farne un brand riconosciuto. Gli abbiamo dato la possibilità attraverso il nostro sito di inserire il loro progetto e tutte le informazioni, il business plan. L'abbiamo presentato agli investitori con delle comunicazioni dedicate. Il risultato è stato che in un'ora da quando abbiamo aperto il funding, tutto il finanziamento da loro richiesto, in questo caso erano 130.000 euro, sono stati messi a disposizione, quindi si è raccolto manifestazione di interesse da parte degli investitori. Beh, non stiamo parlando di tanti soldi, 130.000 euro per un'azienda, ci sarebbero miei amici che hanno un'azienda che dicono li facciamo fuori in poco tempo con pochi dipendenti. Adesso ci fermiamo per pochi minuti, c'è la pubblicità, poi riprendiamo, anche perché vorrei chiedere a Dario Giudici come si fa poi a partecipare, perché essendo su internet io posso partecipare, cioè tutti possono partecipare. Tutti possono partecipare. Benissimo, riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di startup e di crowdfunding, cioè questa modalità che giustamente Francesco Mantegazzini ha definito quella della colletta, che è un buon termine, colletta digitale via internet per raccogliere soldi per lanciare oppure far consolidare una startup. Dario Giudici, che è l'amministratore delegato di Siamo Soci, ci stava facendo l'esempio di una startup che voleva raccogliere 130.000 euro. Naturalmente stiamo parlando anche di piattaforme che permettono di raccogliere molto più di 130.000 euro. Cito un nome che molti ascoltatori forse hanno sentito, Kickstarter, che forse è una delle piattaforme più note al mondo, riesce a far finanziare dal popolo della rete, anche se sto termine un po' non è che mi piace molto, startup che raccolgono milioni di dollari. Ci sono tantissimi esempi, uno può andare su questo sito. Ecco, su Siamo Soci come faccio io a partecipare? Allora Enrico, Siamo Soci è facilissimo. La prima precisazione che vorrei fare è che su Siamo Soci l'investitore dà un commitment, ossia un impegno all'investimento, che poi si esplicita con un contatto diretto con i fondatori e la chiusura dell'operazione, ma la grossa differenza rispetto a piattaforme come Kickstarter è che in questo caso i soldi vengono dati in cambio di quote societarie, quindi chi investe diventa socio nella startup. Da qui il nome siamo qui, soci. Da qui il nome. Certo. Farlo è molto semplice, ci si iscrive gratuitamente su www.siamosoci.com. In questo modo si accede a tutti i profili delle startup, incluse le richieste di capitale e business plan. È possibile studiarle, è possibile contattare direttamente i fondatori, confrontarsi con loro e poi appunto dare una manifestazione di interesse che non è vincolante legalmente, ma che serve a mettere insieme un gruppo di più investitori con un investimento minimo di 5.000 euro che mettono insieme le forze per finanziare questi progetti. Senti, il progetto più ricco che avete finanziato fino ad oggi quanto ammonta? Intorno al 500.000 di euro. Ma considera che per queste startup in realtà i capitali che servono non sono tipicamente molto elevati. Naturalmente dipende da quanto sono capital intensive, cioè quanto investimento necessitano e tal tipo di attività, ma se parliamo del mondo del digitale, i finanziamenti tipicamente servono per diffondere la conoscenza dei progetti sulla rete, fare le cosiddette metriche, cioè cominciare ad avere dei numeri di mercato, e non sono necessarie grandi somme. È necessario che ci sia però un contributo ed è necessario che ci sia l'aiuto di chi entra in società anche da un punto di vista di esperienza, certo, e di competenze. Certo. Ciò non toglie che poi insomma il finanziamento è importante. La settimana scorsa ho intervistato dei ragazzi che hanno lanciato Easy Driver, che è un'applicazione per prendere il taxi. Sono anche loro nel... Sono presenti alla fiera anche loro. Alla fiera del 17 giugno. E su Siamo Soci. Loro dicevano, noi abbiamo tanti soldi, perché poi è difficile raccogliere soldi. Uber, che fa la stessa cosa in tutto il mondo oramai, ha ricevuto finanziamenti per 50 milioni di dollari. Ecco, quindi chiaramente ti presenti poi sul mercato con dinami, insomma, con potenzialità diverse. Fabio Simonelli, project leader e socio di Eppela, benvenuto. Yeah. Benvenuto Fabio. Buonasera. Eppela che cos'è? È una piattaforma di crowdfunding? Sì, Eppela è una piattaforma di crowdfunding, parliamo di reward based crowdfunding, quindi diciamo spiegaci bene. A fronte di una donazione non si diventa soci di un progetto, ma si riceve in cambio un reward, che può essere o il prodotto che si andrà a creare una volta che il budget è andato a buon fine, piuttosto che una ricompensa che è proporzionale al livello di donazione che viene effettuato. Ci fai un esempio di una società che è stata finanziata, che esiste? Vi faccio un esempio, perché mi ricollego un po' alle cose che stavi dicendo prima, quindi ai numeri di Kickstarter, e anche se Kickstarter stessa è una piattaforma che per l'85% dei budget raccolti i progetti non superano mai $20,000, quindi i progetti milionari su Kickstarter sono veramente, si contano sulle dita di tre mani. È la deformazione dei giornalisti, che guardano spesso ai numeri quelli un po' troppo grossi, quindi certo. Però comunque ecco, ovviamente noi siamo nati come modello, Apple è nato come modello, come replica del modello appunto di Kickstarter, ovviamente con dei problemi legati a quello che era il mondo e la comprensione del crowdfunding in Italia, legato a tutto quello che poteva essere anche la diffidenza legata al sistema delle donazioni, e diciamo che quello che abbiamo visto nell'ultimo anno, che fortunatamente dopo una grossa evangelizzazione mediatica e attraverso i digital, attraverso anche gli eventi come la fiera delle startup l'anno scorso, dove abbiamo partecipato con il nostro baracchino. Ti chiedo l'esempio, perché sì, così... Allora, l'esempio di cui ti voglio parlare è una startup di Bologna, si chiama Trail Me Up. Sono dei ragazzi che hanno cercato su Eppela i soldi per brevettare uno zaino per mappare i sentieri di montagna. Chiedevano intorno ai 12.000 euro per depositare questo brevetto, hanno raccolto i soldi in 30 giorni, dopodiché immediatamente dopo aver depositato il brevetto hanno ricevuto un fondo dalla regione Emilia-Romagna di oltre 100.000 euro e a luglio saranno, credo, a Cupertino o in San Francisco, nella zona delle Silicon Valley, per una proposta d'acquisto da parte di Google. Quindi questo è un po' lo penso step. Un po'. Mantegazzini. Sì, tra l'altro saranno anche loro. Anche loro. Non solo, non solo saranno la fiera, ma loro realizzeranno il virtual tour della fiera. Quindi pensate che dall'aver chiesto su Apple i soldi, l'hanno ricevuti, eccetera, adesso già realizzeranno questo virtual tour che sarà disponibile a tutti. Dunque, Fabio, tutto regolare, perché so che la Consob sta lavorando con i tempi italiani, con calma, ad una regolamentazione di questo settore. Sì, diciamo che la Consob, e Dario penso non possa confermare, sta lavorando al momento su quello che è la regolamentazione sull'equity crowdfunding, quindi per quanto riguarda la parte reward-based non esiste ancora una regolamentazione. Perché ecco, in questo caso, nel caso che ci ha spiegato Dario, cioè siamo soci, io divento effettivamente socio, quindi proprio investo e divento partecipo col capitale alla società. Nel vostro caso io che cosa ricevo in cambio? Come ti dicevo prima, in cambio della donazione io ricevo o un'opzione sul prodotto che si andrà a realizzare una volta che il budget si è raggiunto, oppure una ricompensa che nel caso ad esempio della realizzazione di un cortometraggio potrebbe essere la copia del proprio nome nei titoli di coda, piuttosto che la partecipazione alla prima del film. Scusa, nel caso dei ragazzi che hanno brevettato lo zaino cosa ricevo? Fondamentalmente avevano un accesso con un codice privilegiato al sito dove poteva essere mappato da parte del loro interesse. Ok, chiaro. Chiedo a Francesco o a Dario chi vuole rispondere. Molto spesso stiamo parlando, lo stesso Fabio può rispondere, facciamo rispondere a Fabio, molto spesso io investo qualche denaro, molto spesso questi progetti sono legati a prodotti con la promessa che ricevo magari per primo il prodotto, giusto? Esatto, guarda, ti faccio brevemente un esempio di ragazzi che hanno realizzato una startup che realizza lampade di cartone con i cartoni della pizza, proprio hanno disegnato una fustella sui cartoni della pizza e hanno realizzato una startup che si chiama Fattelo. I ragazzi hanno messo a finanziamento su Apple il progetto, hanno raggiunto il budget nel tempo stabilito e fondamentalmente davano l'opportunità a chi gli faceva la donazione di acquistare la lampada in prevendita alla metà del prezzo di quando sarebbe stata messa poi in commercio. Chiarissimo. Quando sento questi progetti sorrido, ma con molto piacere, perché il mondo è bello e l'Italia è bella perché ci sono persone così che inventano cose a cui io non avrei mai pensato. Paolo da Firenze, benvenuto. Buonasera. Prego. Allora, sentendo tutti questi giovani, io sono un pochino faccio un po' la differenza, perché io ho realizzato... Ma guarda che non abbiamo 20 anni, Faceva l'esempio di Fattelo, l'ho conosciuti questi ragazzi, di fatto sono carinissimi a Firenze, quella della lampada di cartone. E la domanda è un pochino questa, io ho creato una startup all'età, ho superato ormai 50 anni, è venuta quest'idea che poi è stata anche brevettata di realizzare un caminetto a bioetanolo in terracotta refrattaria. E naturalmente i problemi sono nati subito perché una startup con una persona di oltre 50 anni ha praticamente le porte chiuse ovunque, soprattutto in un momento dove è difficile anche finanziare i giovani, figuriamoci quelli un po' meno giovani. Pertanto grande pacca sulle spalle, congratulazioni per aver creato un'impresa nel momento che chiudono imprese tot al minuto ogni giorno, però le difficoltà di partenza sono enormi. E io mi sono quindi avvicinato, ho avuto un contatto con un convegno sul crowdfunding e volevo approfittare di questa trasmissione per fare una domanda, sostanzialmente io ho capito un po' questo, risolto o perlomeno in attesa che venga risolto l'aspetto fiscale, che non è poco, perché ti chiedono dove sono andati a finire questi soldi e come denunciarli. Volevo sapere, ma si può finanziare anche un modo di sviluppo del prodotto stesso? Cioè, ad esempio, la partecipazione a una fiera internazionale per far conoscere il prodotto può essere un oggetto di crowdfunding, per dire? Interessante questa domanda. Perché tanto alla fine. Grazie Paolo. Grazie molto gentile. Grazie a lei per aver chiamato. Naturalmente in bocca al lupo. Lei ha ragione. Molti ti danno la pacca sulle spalle, ti dicono in bocca al lupo, però poi bisogna avere anche i finanziamenti. Adesso ci sono le notizie che arrivano da Strade e Autostrade. Poi Francesco Mantegazzini che ha alzato il dito per rispondere. Anche Dario hanno delle risposte. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Questo è 2024, l'ultima parte. Stiamo parlando di un fenomeno estremamente interessante e finalmente lo è anche in Italia, con mille difficoltà, un po' dal punto di vista normativo, un po' dal punto di vista economico, ma molte start-up stanno nascendo. Questa sono sicuramente una speranza per il futuro. Dunque, Francesco, poco fa il nostro ascoltatore Paolo ci diceva: ma può essere ad esempio finanziato in questo modo anche il modo per farmi conoscere? Quindi se io vado ad una fiera, mi faccio finanziare alla fiera e non direttamente il progetto. Certo, si può finanziare di tutto. Noi stessi come Gruppo 24 Ore abbiamo cercato di mettere in pratica, di sperimentare il crowdfunding. Abbiamo due progetti, uno che abbiamo portato avanti sempre con Apple nel mondo dell'interior design, grazie a Inner Design, che è il nostro portale di shopping di interior design, dove abbiamo portato tre artisti emergenti al Taste of Milan per la raccolta di fondi per la realizzazione delle opere, una misura pasta, un nuovo tipo di piatto. Cioè, quindi in pratica voi avete finanziato, avete sponsorizzato questa partecipazione ad una fiera? Questo lì era più appunto grazie a una fiera abbiamo portato dei progetti di crowdfunding davanti al pubblico, mentre proprio per la fiera delle startup avevamo ipotizzato di sponsorizzare la fiera con un progetto che abbiamo realizzato, sarà a breve su Apple. Lì abbiamo riscontrato delle problematiche fiscali che in realtà poi hanno avuto un risvolto molto positivo, perché tutti i proventi, invece di andare a sovvenzionare la fiera, andranno in beneficenza alla Onlus Pancito Sway. E poi appunto Dario ora ci potrà dare anche qualche contributo in più. Dario, sì. Però ma io cerchiamo di rispondere. Guarda, quello che volevo dire all'ascoltatore, a Paolo, se ricordo bene, è che se questa sua innovazione si adatta a costruirci un modello di business, e quindi non vedo perché non dovrebbe, Paolo si dovrebbe concentrare sul presentare e costruire questo modello. Quello che noi facciamo per esempio con Siamo Soci è proprio cercare di avvicinare il mondo degli imprenditori a questi investimenti. Qui parliamo di un tema legato all'edilizia, che è notoriamente un tema che oggi vive un momento di difficoltà e dove c'è grande bisogno di innovare, e io non vedo perché degli imprenditori di quel mondo non dovrebbero essere interessati. Il 18 siamo a presentare 9 startup in Confindustria e Monza e Brianza, che sono molto attivi sul tema delle startup, davanti a una platea di imprenditori che hanno voglia di guardare a questo tipo di innovazione. Quindi questo è il suggerimento che posso dare. Naturalmente uno dei vostri ruoli è anche di fare una preselezione delle startup, non è che tutti quelli che si presentano vanno a finire sulla piattaforma di Siamo Soci. Noi facciamo una selezione, più che altro aiutiamo le startup ad essere presentabili da tutti i punti di vista e ci assicuriamo per quanto possibile che le valutazioni, che le richieste di capitale siano allineate con quelle che possono essere le aspettative degli investitori. Certo. Fabio Simonelli, tornando alla domanda dell'ascol di Paolo, ti è mai capitato di trovarti di fronte ad una startup che chiede finanziamenti per far promozione della propria idea di startup? Ma ti devo dire, io ovviamente a secondo tutto quello che Francesco e Dario hanno detto, perché ci capita molto spesso, noi riceviamo una media di 40-50 progetti al giorno, quindi ti puoi immaginare quanti ne arrivano di ogni genere, e quello appunto di trovare una possibilità di presentazione del progetto per poi andare eventualmente a realizzare il progetto stesso su commissione è ovviamente una delle richieste che ci arrivano e valutiamo. Noi non escludiamo nessun genere di progetto, noi diamo però mi sembra di capire in generale che non vi è mai capitata a nessuno di una cosa del genere, cioè una risposta precisa. Cerchiamo di sostenere le start-up o i progetti che cercano una visibilità, trovando loro una visibilità gratuita. Ecco, secondo noi andare a finanziare un evento per poi andare eventualmente in produzione con un progetto è un pochino lontano con quello che è il concetto del prodotto. Sì. Senti Fabio, quante startup vi arrivano? Perché immagino anche voi dobbiate fare un processo di selezione, o tutti possono presentarsi e andare a finire su Appela? Allora, chiunque può presentare un suo progetto, quindi noi non escludiamo. Appela è una piattaforma generalista, quindi qualsiasi genere di progetto, di prodotto può essere presentato. Ti dico che su una media di 40-50 progetti al giorno noi facciamo una prima scrematura, perché ne arrivano di ogni, che ci porta, diciamo, a fare una selezione di un 10% di quelle che ci vengono presentate, con le quali portiamo avanti un discorso di finalizzazione del progetto, caricamento del progetto con un video streaming, perché comunque è importante fare. Quindi quelle le seguite un po' di più, diciamo così. Sì, diciamo che noi li seguiamo. Perché vediamo che comunque c'è bisogno da parte del creativo, dello startup, comunque di un po' di sostegno. Senti, se io avessi una startup, ma perché non mi conviene andare direttamente su queste piattaforme giganti americane, su Kickstarter? Perché dovrei andare su Appela, che è in italiana, piccolina, senza offesa? Allora, a parte il discorso, diciamo, nazionalista, noi ci sono due componenti molto importanti. Allora, prima la componente di progetto, ovvero per caricare un progetto su Kickstarter c'è bisogno di avere un conto aperto negli Stati Uniti e quindi di avere un qualcuno. Perfetto, mi hai già risposto. Perfetto. Il secondo è per un discorso legato alla geolocalizzazione, nel senso che l'azione di ricerca di fondi viene supportata da Appela con un'azione di digital PR molto importante sui progetti che dimostrano di aver voglia di raccogliere fondi. Perfetto. Fabio, sei stato perfetto e i due punti sono estremamente chiari, anche perché lo si dice spesso, poi la Silicon Valley è lontana, ma tutto avviene in pochissimi chilometri, lo spazio fisico e l'incontro delle persone è importante. Un ascoltatore ci segnala che il gruppo bancario Credito Valtellinese ha una tipologia apposta per finanziare le fiere all'estero, quindi ad esempio questa è un'idea. Prego, poi lasciamo Mantegazzini concludere. Volevo, se posso, dare anche una risposta sul tema del perché l'Italia, anche se è in modo diverso rispetto a Appela, visto che siamo soci, parliamo di entrare in società, ma a maggior ragione quello che riscontriamo sul mercato è che le startup hanno bisogno non solo di trovare fondi, ma anche di trovare un aiuto concreto da parte di chi entra in società. L'Italia è piena di imprenditori che portano esperienza, competenze, che possono risparmiare tanti errori a questi giovani, quindi vogliamo che tutti gli imprenditori italiani si avvicinino a questi investimenti e che diano una mano a questi ragazzi, aiutando anche se stessi nel mantenere una competitività attraverso l'innovazione. Questo è un ottimo punto. Dunque Francesco, concludiamo ricordando allora che il 17 giugno c'è la Fiera delle Startup e mai nome fu più chiaro, perché si capisce benissimo, nella sede del gruppo 24 ore, dove c'è anche Radio 24, ci sono 200 startup. Cosa succede? Insomma, raccontaci qualche dettaglio. Sarà possibile visitare tutte le 200 startup. Consiglio di guardarsi prima i video sul sito ufficiale www.fiera-startup.ilsole24ore.com per arrivare già preparati. Fra l'altro ci saranno anche Siamo Soci, Appela e anche altre piattaforme di crowdfunding presenti con i loro baracchini, quindi se uno vuole chiedere più informazioni può venire. E inoltre ci sarà un amplissimo programma in auditorium con tantissimi partecipanti, si parlerà anche di crowdfunding, sia equity che reward based, con degli esponenti molto importanti. Ricordo anche che l'evento è gemellato con quello della Regione Lombardia e dell'Unione Camere Lombardia, che sarà il 20 di CC Alps, quindi 20 giugno anche questo. E niente, sarà un evento incredibile. Ricordo anche a 18:30 avremo anche un flash mob nel cortile con delle riprese aeree di un drone. Noi abbiamo parlato di droni la settimana scorsa. Perfetto, una droid cam, amici che gratuitamente verranno a prestare la loro opera, come tutti quelli che in crowd, perché appunto la fiera è bello che è stata organizzata tutta da tante persone fuori. Questo è il vero significato di crowd, cioè la collaborazione di massa per realizzare un grande obiettivo. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, saluto Fabio Simonelli, socio di Appela. A presto Fabio, grazie per essere stato con noi. e grazie anche a Dario Giudici e Francesco Mantegazzini per essere stati con noi. Ragazzi, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, ritorno, ciao, a presto. Io ringrazio Benedetta Acri che ci ha aiutato oggi in regia, Rosa che ci ha aiutato al centralino, Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica che va al di là di quella che sta al banco di regia durante la trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, lavora con me durante la settimana Anita Panizza. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci potete trovare anche su Facebook, su Twitter, chiamando il centralino di Radio 24. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Radio 24, il sabato pomeriggio. 2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024. 21 seconds and we're going for auto sequence start.